salire. 1,50 questo pernacchetta, Ah, ma così è di due allora? Hai quando ho visto, allora hai visto un cartello segnale, visto? Questo è quello della registrazione, poi c'è, sarà sempre lui che mette la portata. No, a noi lo si fa tenuto, boh, pernacchia canto in viaggio. Capeggio, capito qua, per carità, uno si fa forse dietro un microfono, sta nascondendo dietro un microfono, vabbè, cava, comunque c'era una signorina qua, basta un po' arriva qua, 7:45. Non so chi è, non c'è qualcuno che ha chiamato qualcosa, ma non so chi è, chi è che ha chiamato Sassari? Visto quello delle vernacchie 9,50? Visto che mi di Ligueo e tu non mi credi? Ah? Una casa è più basso. Non lo so, qua non come. E un club è più basso, è qua vicino ormai a Franco, per forza è più basso a casa tua. Normale, no? Comunque che mi hai detto fallo, già me lo vanno, sono da quella persona. Ma io devo contribuire a dove c'è lo scopo. E ma ragazzi lo scopo. Alessandra, pensiamo alla salute. non ce l'ha tutto lui, da lui è importante. Non si fa niente, proprio niente di niente, cappa. Tu sei un pochino più alto però, tu sei un pochino più alto però, o la finisci, o sono quel cazzo di microfono, di spettacolo, che c'è, te lo faccio mangiare, eh. Uscidi tu, va bene, continua. Tu sei nuovo, tu sei novedese, vai, hai fatto una gaggata, non fatto manco un giurico. Mi sto riferendo all'altro, a quello 940, eh? Cosa devi morire? Cassi? Ah, potete dire, io sono un imbecille, io sono un guatto, va, lo capo malato. Ma è 9-10, non disturba nessuno, lui è convinto di dare fastidio. Io sto dicendo all'altro signore che arriva a 9.40 qua, no? Non molto distante da me, fai da bravo, che ti si vede da 100 km che c'è il microfono di tavolo. Aspetta, che ha fatto una scoppolata a una persona. Così non la voglio fare. L'ho mandato zona lima destra, vai. Lascio continuare. Ah, beh, l'altro è da lima destra, sì. L'altro sì che è da lima destra. Con il microfono a tavolo. Fai da bravo, che non sei così scemo da poter rompere il coglione alla gente. Segnale 5 è quello che abbiamo già, stiamo aspettando che cada nel tranello, non lo sa, ma quello forte, quello a 9.40 lo sappiamo già chi è, guarda, è un imbecille, 9.10, non andiamo manco là, non arriviamo manco alla dandrita, dove devo andare, è un cagone, l'altro è un pochino più prepotente, ma l'altro lo sappiamo chi è, c'era Franco sotto casa sua ieri notte, non c'è problema. Cioè ieri notte non l'ha messo, l'altra notte. Ai ai ai. Ah, io non rompere il coglione, cazzo, mi vengo a casa a dormire, me. Ma anche se sono imbecille, cazzo. E se manno, me non servici meglio, no? Poi mi devi dire, cosa cazzo vuoi qua nel canale 10? Chi ti sta cagando? Cosa cazzo vuoi? Dimmi cosa vuoi, ma chi non ti nandi? C'è una santa pace dalle altre parti e venite a rompere i coglioni qua, io non vi capisco più. Cosa gatto vuriti, cosa vuriti? Poi quando vengono a casa tua in 4-5 persone che attaccano la testa, allora tu la metti. Era bravo, guarda, sono un umano, sì, fatti arrendare, sono un umano, va. Sei già una persona una certa età, era bravo. Ah, tutti bene che fa. No, quello 9-10 no, non disturba nessuno, lui è convinto di rompere con loro, ma è un pellegrino, no, non disturba nessuno. È l'altro che è più prepotente, capito? Ma l'hanno già capito chi è, l'hanno già trovato, non è un problema. Stiamo aspettando, stiamo cercando di essere coerenti, capito? In modo che non si sputtane la cosa, però poi alla fine, come è stato esagerato, allora, non io perché non mi permetterei mai, ma qualcuno può dire chi è, e si gagga sotto, ecco. Claudio, poi adesso dimmi bello bene. Mi ascolti sempre uguale oppure cambia qualche cosa? Tutti già ce la figli. No, lui vuole stare alla casa. Ah, che ricordo la casa mia. Ah, sono un gatto. Tu ci ho detto, c'è tutti i bimbi, non si fa seduta, e non te le dica lei, lì ce l'hai un bestigato via da una ghita, non sono tutti nulla. All'altro sto dicendo, che va, è qua vicino a casa, lascia a te, vabbè, che continui, faccia il cazzo che vuoi, tanto è stato sempre malato di grappa. Invece buon viaggio. Esatto, anche io sono metto lo squelch. se la bisogna di più. Fra, tanto non c'è stare a Rocca Cittadino, va. Abbiamo fatto di tutto per far entrare le persone, questo piatto di radio a voi, dicevo che da ci. Circuito chiuso, mi dispiace, signore Belli, uno di 40 anni e poi diventi lì, perché io non devo stare a beticciare con nessuno. Ti ho detto, ho finito di legare quella roba. Tutto qua, ti ho fatto che bilanzi è finito. Tutto finito. Va bene, ho detto Luca, ma vabbè tu ci vieni domani mattina. No, adesso non ci viene perché devo andare a fare la spesa, capito? Vabbè, lui sabato sì deve andare a fare la spesa. Niente, comunque, vabbè. E poi domenica scende di nuovo? Cappa. Sì, sì. Domani vogliamo. Se mi scendete almeno che poi ve raggiungo, però domenica mattina non ci vedo, se no la voi ci va questo un po' lì. Qua stavo dicendo niente, allora vai tutto a pronto, tutto già pronto. Allora quanto non deve stare fra Mattanato e Zendito, possiamo anche lasciare libero questo canale, fate come volete. Noi ci spostiamo in un altro canale, alla Gedi, perché non avremo il guglione pieno a me, basta, lo riscrivete. Per intanto l'importante è la mettono perché voi siete bassi e perché se la pigliano con voi. Perciò, sicuramente a me, a Franco, a Luca, a Gianni e a tutti quelli che sono qua al monte non ci fa un cazzo. Allora, alla Gedi, fate un canale vostro, alla Gedi. Protestate con loro, non con noi. Io sono a scuoci chiuso, non sento niente. E non voglio dire nulla, non me la fotte nulla. La gamba. Tanto segnali, quelli che sono bassi non li sentiamo qua. La scuola è finita e si sta ballando. E fare fra, a me mi dispiace. Cazzo, ma io non posso fare una panna, me lo sai dire, non ti fa niente, no? Ogni volta che parla uno, lo segnale basso, e si mettono a mettere la portante, ma non è la buona la portante, che rimane ben attata, ma un bel paolo. Perciò, ne parliamo tra di noi, e ciccia, volete il canale 10, noi ci spostiamo sul 20, non ne abbiamo problemi. Papà, e invece se non è numero 40? No, rimaniamo nei canali bassi, non c'è problema. Andiamo sul 3, sul canale 3, non c'è problema. Vai sul canale 3, va, canale 3. Il piano di massa non è sufficiente, oppure l'antenna non sta radiando in trasmissione. Perché non è detto che il segnale sia buono, però anche quello è un po' così da desiderare. Perché se c'è la ricezione, come mi hai detto, mi ascoltavi 9:10, io ti ascoltavo 5, c'è un abisso. In base alla ricezione ci deve essere anche la trasmissione. Vabbè, io uso più watt rispetto al tuo collega, però almeno 8-9 mi doveva arrivare lui qua, invece di mezzo al QRM proprio addirittura a casa di Luca non ti sentiva. È quello che mi preoccupava a me, perché non è un baracchino normale che lui c'ha, no? È normale, con i fatti normale, è quello che ti volevo dire, io, ma se non sia dalle punti. Ma mi sembra strano perché se sia dalle punti non arrivasse a Lucca, anche se non ha radio normale, perché l'antenna è buona sul camion e non ci fa capire, perché con la sua, con quella che ha comprato lui, con quel tamagno, non so se che cosa sia una miglia o che cosa sia, sta facendo abbastanza bene, ma bene veramente. E io ho detto, mettiti questa che è un'antenna seria, e niente, capito? Mi dispiace perché mi dispiace, ma me l'ha pagato 40 euro perché io gli ho pagato 40 euro a Franco e lui mi ha dato le 40 euro che ho speso io per coso, però mi dispiace quando non esce, capito? Sono rimasto un po' di coso, dai, dovrebbe uscire di più, invece non stava uscendo, adesso la rivedo un po' a vedere come mai, che cosa dipende, ma la devo rivedere, adesso non c'avevo il rosmetro, ma c'avevo neanche uno spezzone per fare per vedere, a vedere se c'è una stazione, perché stazione non c'è nulla sulla macchina mia, capito, con quella antenna lì. Tutto da rivedere, capito? Però penso che dovrebbe rivedere. Ho giocato l'antenna e funzionava, e ne è più funzionata che non funziona, capito? E così sono arrivato un po' così, un po', scusate la frase, un po' di merda stasera con questo collega, dai. Scusate, non ci faccio la Dio. Ho detto sì, ma ho provato il camion da me andava, ho detto ma poi io non ho capito perché non è andata lì, l'ho montata e non è andata. Ma lui è stata montata male, scusa lui è. Se la macchina tua funziona, lì non funziona, vuole che qualche problema lì. Io ce l'avevo in macchina, ho provato in macchina, funzionava perfettamente quello che. L'ho provata in camion io, dai, l'ho provata in camion da me, l'ho attaccata alla stessa fasetta, ho fatto qua 5.000 e va bene, non mi dà stazione, ho controllato, non mi dà stazionale di nulla, perfetta. Non è usciva come la 5.000 perché non usciva come la 5.000 e non riceveva neanche come la 5.000. Perché c'è un avviso dalla 5.000 turbo a quella lì, però lui aveva questa Magno che ha comprato, l'ha pagata 30 euro nuova e niente, no. Usciva, però usciva discretamente, si faceva sentire discretamente. E gli ho detto, mettiti questa qua, sono riuscito a convincere a vendergli quell'antenna lì, che ha detto questa è molto, molto migliore, e gli ho messo tutto con la basetta, che mi ha dato tutto quanto, ho messo, però mi ho provato stasera a ricevere, che va bene, ma uscire non c'era, volevo capire se c'era qualche, mi mancava la massa da qualche parte, ma capito, tutto qua, e non ho capito il motivo perché stasera, non l'ho capito proprio. Mi sembra una cosa strana, ma lui, non lo so. Io ho provato in macchina, andava bene. Adesso me devo ritirare la mia anche, che arriva lunedì. Sì, ma l'ho provata pure io. Dicendo l'ho provata in camion, l'ho provata. Però non ho capito come mai, qua l'ho messa, l'ho tolta là, quella che c'aveva sotto, l'ho tolta quella là, con la basetta, e abbiamo messo, che gli avevo piazzata io quella là, sì, e gli ho messo questa qua. Gli ho messo questa qua, ma l'accendo sembrava che si registra, ma va a fondo scala proprio bene, là. Quando schiaccio la portante va proprio a fondo scala perfettamente. Ma scusa un attimo, ma non ti va a tirare c'è la radio? Perché poi la c'è anche la radio che abbia il segnale così basso, No, la radio è quella che si mette in macchina io una volta, gli avevo ricevuta io. Ma dovrebbe dare un 8 watt, una cosa del genere, non mi ricordo che sia aumentata, o 10 watt si sarebbe data quella radio lì, una decina di watt da quella radio lì comunque. No, 10 watt ci andiamo 4 dalle punte come puoi mai vedere lì. Con 10 watt vai da... Tu immaginati che da ottava tu parcheggiato dove sei, dentro casa tua, ne arrivi più di 9, scusa c'è ottava, cattuendo dai punti, mi capisci cosa ti voglio dire? È quell'inte che operavo io da casa con quell'antennina, mi ti ricordi? O quello che operavo con quell'antennina e ci arrivava abbastanza bene. Quella lì, quella radio lì, quell'apparato lì. Ma non mi deve arrivare così basso, Santiago 4, addirittura a casa di Luca non arrivi. Tu.